scelto questo nome, Arbenyoshi, che significa partigiano in amarico, che è la lingua dell'Etiopia. E il nostro collettivo nasce nel 2019 da diverse realtà presenti sul territorio reggiano, già consolidate e conosciute, quali Casa Bettola, che è una casa cantoniera autogestita, non una di meno, Istoreco, Città Migrante, Casa Spartaco e AQ16. Un quartiere che ospita le officine reggiane e che è composto da vie che hanno nomi di imprese coloniali, di insomma rimandi al colonialismo, soprattutto in Eritrea e in Etiopia. Tra l'altro in questo quartiere c'è un polo scolastico e quindi noi abbiamo scelto, spinti dalla presa di coscienza individuale rispetto al tempo e alla storia, rispetto al fatto che ci siamo resi conto di leggere questi nomi, quindi via Macallè su insegne luminose sugli autobus, piuttosto che la presa di coscienza che il linguaggio che fa riferimento al colonialismo è effettivamente più utilizzato di quanto noi non ci rendiamo conto. Per esempio, ci è solito dire è un grande baradan per identificare una situazione di confusione, quando in realtà poi se chiediamo che cos'è l'Ambaradan o che cos'è il monte Aradan, magari non è così noto. E non è così noto non per una casualità, ma perché c'è stata e c'è tuttora una volontà di infangare quello che è stato il passato coloniale in Italia, le imprese italiane e nelle terre d'oltremare. Quindi questa lettura del territorio, questa volontà di leggere il territorio e l'intuizione che è effettivamente dalle imprese coloniali, l'intuizione e lo studio, insomma, la scoperta da parte mia, che è effettivamente dalle imprese coloniali, che anche il modo di trattare le persone razzializzate nel paese ha origine, e ci interessiamo appunto di studiare i nomi delle strade e di reintitolarle con un occhio spesso attento al punto di vista artistico e non solo prettamente alla guerriglia dell'onomastica. Quindi non cambiamo solamente i nomi delle vie, ma lo facciamo anche in base alle ricorrenze e insomma alle necessità che ci spingono a ricordare determinati momenti. La prima azione che abbiamo fatta è stata proprio in via Macallè ed è stata fatta davanti al polo scolastico. Via Macallè, che è stata intitolata Sylvester Aghiemang, che è un ragazzino che è morto nel 2011 e schiacciato da un autista degli autobus. I ragazzi della scuola in primis sono stati molto colpiti da come i media hanno riportato la notizia e hanno scelto di intitolare via Macallè a questo ragazzo, loro compagno. Abbiamo spiegato che cosa è stata la battaglia di via Macallè attraverso poster integrativi e con un intervento teatrale abbiamo letto una poesia di Richard Wright. Abbiamo fatto altri interventi e abbiamo rintitolato via Eritrea a Sam Modu e Diop Mor, che sono due ragazzi di origine del Senegal che sono stati uccisi da Gianluca Casseri a Firenze ed era un simpatizzante di Casa Pound ed sono stati uccisi per odio razziale. E noi denunciamo come i media trattino questo tipo di notizie in modo assolutamente non equo e quindi ci teniamo appunto a sottolineare come queste morti siano vicine al nostro passato di coloni. E quindi ci ricordiamo che ci sono stati partigiani anche a combattere contro gli italiani. Ed è proprio una presa di coscienza, cioè renderci conto di che spazio occupiamo nella società, come poter fare per leggere la storia senza discolparci, ma insomma con un occhiale più, con un occhio più attuale. E questa è una data che abbiamo ricordato per la seconda volta quest'anno ed è Yekatita Straulet ed è il massacro che si è compiuto il 19 febbraio. È stata una rappresaglia che ha dato vita alla più grande caccia al nero che c'è stata in Etiopia durante quegli anni, e abbiamo scelto di mettere sulla rotonda della stazione in Reggio Emilia, dove c'è una struttura che viene considerata come struttura del decoro urbano, e i nomi con cartelli con i nomi delle persone morte per cause di razzismo e di odio razziale dal 79 ad oggi. E un'altra azione che ci tengo a ricordare e di cui andiamo molto fieri, l'abbiamo fatta il 24 di aprile del 2021 al Parco della Pace a Reggio Emilia. E abbiamo voluto fare un tributo alle figure di Soncini e Cigarini, che sono ex partigiani che hanno sostenuto la resistenza in Mozambico. E quindi abbiamo fatto questo tributo con canti, letture, la partecipazione di Istoreco sotto la statua appunto di Oliver Tambo, perché ci teniamo anche a, come diceva Mariana prima, a ricordare che insomma vogliamo togliere anche il gatekeeping che si viene a formare intorno alla figura del partigiano. Noi vogliamo ricordare che i valori della resistenza sono internazionali, che ci sono state tante persone sul territorio a combattere contro l'oppressore, e anche attraverso le figure di Soncini e Cigarini e invitiamo a ricordare che dobbiamo riconoscere nell'oppresso il nostro compagno e il nostro fratello. E l'8 marzo, insieme a Non Una di Meno, sempre per dare un punto di vista internazionalista alle figure della resistenza, abbiamo scelto di e attaccare degli adesivi che ricordano figure di femministe, donne femministe internazionali, quindi Belux, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai, Maria Alexandrovna, Emma Goldman, Assata Shakur e Violet Gibson. Direi che ci siamo. Promossa. Faccio anche qui un po' di marcia indietro per diversi motivi. Il primo è recuperare da dove sono partita, no? E come la guerriglia onomastica possa essere declinata in diverse forme, no? Noi abbiamo formato una federazione della quale fanno parte gli Arbegnac, Resistenza in Cirenaica, ZAM, Carpi Antifascista, RAM, anche altre realtà di Padova, The Colonize Your Eyes, per un periodo la Rete Antifascista Siciliana e via dicendo. Tutte le azioni di guerriglia onomastica si caratterizzano per essere pensate in base al contesto in cui verranno realizzate, e anche sono fortemente influenzate dalle ricerche che i vari collettivi di questa federazione stanno facendo, quindi come vedete ci sono differenze. Volevo rispondere a quello che diceva prima Cecilia, perché mi sembrava un'osservazione che ho sbadatamente non ho chiarito. Sì, l'intitolazione è la celebrazione di Via Libia, che è rimasta dopo il cambio degli odonimi fatto da questa giunta socialista dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 48, scusate, ha una motivazione abbastanza chiara, o secondo me abbastanza evidente. Mentre tutto ciò che aveva a che fare con il fascismo poteva essere condannato tout court, e quindi il colonialismo fascista, sì. Ma che cosa succede con il colonialismo giolittiano? Perché non c'è una condanna anche dell'occupazione in via della Libia? Ebbene, in qualche modo al tempo i socialisti pensavano anche loro di trovare il sol dell'avvenire in queste terre in cui le masse del proletariato sarebbero andate a costruire un futuro migliore. E quindi la, purtroppo non c'è una condanna del colonialismo tout court, c'è una condanna del colonialismo fascista. Questo è un dato sul quale riflettere, o sul quale noi abbiamo cercato di riflettere. E questo era un po' la risposta che alla questione che evidenziava Cecilia. E, Sandra invece vi ha un po' elencato alcune che sono alcune delle date che la Federazione delle Resistenze ha deciso di commemorare. Prima su tutte gli Ecati 12, in cui si realizzano delle azioni di guerriglia onomastica che in tutte le città in cui c'è una rappresentanza della federazione, quindi Milano, Reggio, Carpi, Bologna e così via. Quella per esempio dell'8 marzo su Violet Gibson è stata un'azione comune. Di solito quello che facciamo all'interno della federazione è scegliere un'azione che sia un po' rappresentativa di tutte le realtà e che possa essere riprodotta in tutte le città. Quindi per l'8 marzo abbiamo fatto un'azione in cui abbiamo ricordato Violet Gibson e l'abbiamo ricordata due anni fa per un motivo molto concreto, uno o due anni fa, adesso non ricordo, ma perché finalmente anche lo Stato irlandese ha riconosciuto che il gesto politico, l'attentato che Violet Gibson aveva compiuto nei confronti di Mussolini non era un atto di follia, ma era un atto politico, e quindi finalmente avrebbero messo una targa commemorativa nella casa di Violet Gibson. Ecco, a noi sembrava un gesto davvero importante, no? Raccontare la storia di una donna che ha attentato alla vita del duce a Roma e che si è salvata, diciamo, da una parte, ha avuto salva la vita perché apparteneva a una famiglia nobile, dall'altra però ha passato il resto della sua vita in un manicomio, chiedendo ai capi di governo europei di essere liberata e rivendicando il suo gesto politico. Lei scrisse a Churchill una marea di lettere e non ebbe mai un riscontro su questo. Non so, mi son persa. Questo perché probabilmente i governi durante il periodo del fascismo non avevano così voglia di mettersi contro il fascismo difendendo una sua attentatrice, per quanto poi fossero democrazie. Che Silvia Panskrut scrive al Parlamento inglese denunciando l'attacco italiano all'Etiopia, che vengono completamente ignorate, quindi quella è stata un'altra donna che abbiamo ricordato recentemente. Voi di Cirene avete anche delle pubblicazioni, avete dei quaderni che non sono qui oggi ma disponibili sulla piattaforma, come si chiama? Distribuzioni dal basso, io li ho comprati lì, e raccontano le loro azioni e i loro studi storici di approfondimento sulle figure a cui poi hanno dedicato le vie. Questa cosa della guerriglia onomastica non è una pratica soltanto di noi militanti antifascisti. Oddio, è una pratica, nei termini della pratica antifascista la facciamo solo noi. Ma il punto è anche che questa questione dell'avere uno spazio pubblico intitolato, dedicato a dei personaggi equivoci, meno equivoci, è qualcosa che hanno capito anche al di là della soglia di noi della sinistra. Perché se pensiamo a le battaglie che fanno i Fratelli d'Italia e Affini e la Lega soprattutto, In ogni piccolo comune dove loro sono presenti, dai più piccoli anche più grandi, è successo anche qui a Milano con la Madonna della Resistenza che sta dalle parti di Adriano, Crescenzago, Ponte Nuovo, cercano sempre anche loro di spingere la memoria dei personaggi che vogliono riabilitare e lo fanno spingendo per dedicargli una via. I loro preferiti sono Giorgio Almirante e Norma Cossetto, e ci sono mozioni e domande all'interno dei consigli comunali continue da parte loro per riabilitare queste figure attraverso l'avergli dedicato una via, uno spazio pubblico. Quindi il meccanismo di avere uno spazio pubblico dedicato a qualcosa, qual è? Normalizzare la memoria di questi personaggi per quanto riguarda gli assassini della Repubblica Sociale e per quanto riguarda per esempio Giorgio Almirante, e quindi riprendersi quella parte di politica democratica anche da cui erano stati allontanati da dopo la guerra in poi. È un passaggio molto interessante, nel senso che normalizzare, loro lo usano come normalizzazione della memoria e sanno che per gli odonimi che sono rimasti ancora coloniali e fascisti rimane quel tipo di pensiero nelle strade da allora. Beh, io credo che forse Marcello potrebbe rispondere meglio di me. È storia il fatto che sui monumenti e sugli odonimi si combattono delle battaglie politiche dal tempo, dai tempi dei cioè è una storia vecchissima di cui probabilmente lui sa molto più di me. Cioè, lo spazio pubblico è una scacchiera e in questa scacchiera si combattono delle battaglie. Quale memoria deve prevalere? Qual è la memoria che dobbiamo tramandare ai posteri? Beh, quella è che viene celebrata nei monumenti, negli odonimi delle vie, e quella che viene raccontata nei libri di storia, no? Un altro classico sono quante righe, non dico capitoli, non dico paragrafi, viene dedicata alla storia coloniale italiana nei manuali scolastici dei ragazzi. No. Ecco, quindi a noi in particolare interessa lo spazio pubblico, anche perché è uno spazio che oggi vivono anche le seconde generazioni. E quindi mi ricordo per esempio quando non una di meno tinse di fucsia la statua di Indro Montanelli. Ecco, al tempo ci fecero un'intervista per chiederci qual era il nostro, con tutto, diciamo, con la venuta alla ribalta di Black Lives Matter, che cosa pensavamo noi del che posizione avevamo sul buttare giù o meno determinati monumenti ed eccetera. E una delle prime cose che noi ci sentimmo di dire al tempo fu che forse non eravamo noi quelli che dovevano essere interrogati rispetto a determinati monumenti. Per esempio, che cosa farne del monumento a Indro Montanelli, forse era meglio interrogare delle donne di colore. No, la mia spalla in quell'intervista era Vuming 2, e lui giustamente evidenziava: io sono un maschio bianco, chi sono io per esprimere che cosa si prova davanti a un monumento del genere? Ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo deciso che la ricontestualizzazione, che spiegare magari perché che spiegare le cose, attribuirle il loro senso, abbia un peso maggiore rispetto alla realtà del contesto in cui noi operiamo, che è quella in cui il rimosso è molto forte, e quindi io non butterei giù personalmente la statua di Montanelli, ma la ricontestualizzerei, cioè aggiungerei una didascalia che spiega chi è questo personaggio e chi offende questo personaggio con la sua presenza in uno spazio pubblico. Soprattutto chi ha voluto quella statua lì. Esatto, esatto. Questo ti passo subito la parola. Perché? Perché questo in qualche modo riporterebbe anche, darebbe anche la possibilità di portare a galla una discussione, no? Che il conflitto non sia, come dire, non nascosto, sottaciuto, manipolato in altro, se no riportato a galla e affrontato. Cioè io no, allora sono arrivato pensando che il tipo di discussione fosse sì in questi termini, ma che avesse anche una possibilità di innestarci sulla questione, diciamo, ripresa, no? Cioè della ripresa nel paese di valori che non sono i nostri, così come abbiamo fatto nella nostra militanza politica, sia per quanto riguarda l'odonomastica, sia per questa questione dei monumenti, che poi e sia nel modo in cui abbiamo cercato di trovare degli appigli che aprissero, no, punti di dibattito. Adesso si è parlato del movimento americano e poi si è ricordato appunto Montanelli. Poi al di là di questo, e quindi il problema è totalmente cambiata la situazione in cui ci muoviamo e in cui siamo all'interno di sta roba, e quindi bisogna riflettere di più. Mi sembra però, cioè vado via con alcune cose che sono da questo punto di vista non che modificano totalmente il mio modo di essere, però mi sembra che siano uscite in modo chiaro due sostantivi, no? Una che sono impostati in modo diverso, cioè espressi da persone diverse, che uno è la questione legata alla rimozione e l'altro allo sradicamento, no? Cioè lui parla di sradicamento di una cultura legata ai monumenti del passato, no? E riporta attraverso le sue il lavoro fatto, studi eccetera eccetera, è uno sradicamento, vuol dire che c'è una radice, insomma, da questo punto di vista vuol dire che è connaturato a un modo di essere dei nostri, come si può dire, di quelli che ci hanno generato, da questo punto di vista, e che è molto diverso, no? Dal fatto che tu rimuovi di quello che hai fatto, di una parte della tua storia che ha fatto, che ha nefandezze, le definisco così, passatemi il termine. Allora, da questo punto, due modi di intendere che ti mettono di fronte a due cose diverse. Perché se il problema della rimozione, no, va assolutamente costruito un problema di invece rimettere, no? Adesso non so. Se il problema è invece dal punto di vista di uno sradicamento, si tratta di un lavoro fatto sulla questione della coscienza in rapporto alla contemporaneità, alla costruzione, no, dei ponti, cioè di riprendere quella storia e di riportarla all'oggi, che vuol dire costruire, però, al che vuol dire rimettersi in cammino, no, su un processo di conflitti che sono però legati a quei valori. Ora io ricordo qui un'esperienza che stiamo facendo, fra l'altro, che ci vede un po' tutti assieme per quanto riguarda questa zona, che è ci siamo trovati di fronte, tanto pensando che era anche il 20, che c'era anche il centenario della marcia su Roma, per quello che significa, che poi non è la non è, cioè il 20, non, il 22 non è il 22, insomma, c'è il 21, e c'è tutto il processo conseguente. E noi ci siamo imbattuti, per esempio, su un problema legato alla memoria di un, addirittura un Arci, no? Che è stato che porta il nome di una, si chiama Pessina, di cui nessuno più sapeva chi fosse, perché, no, qual era il soggetto, perché si richiamasse a Pessina. Abbiamo scoperto che 100 anni fa è stato 100 anni fa, cioè le squadracce fasciste hanno praticamente, insomma, è una delle vittime un muratore, e abbiamo deciso, da questo punto di vista, su invito di una nipote, di fare un percorso di questo tipo, costruendo intanto l'elemento storico, no? E poi scoprendo che questo non solo ha dato non solo l'Arci porta il nome, ma le cellule del PC, no? No? Storicamente poi avevo il nome di questo, e quant'altro, e quindi si è aperto un mondo, no? Da questo siamo arrivati a identificare un percorso, no, sulla questione, per esempio, della rivendicazione, identificare questa questione del 22, la questione della guerra. E noi faremo, no? Adesso è un consesso molto largo, no? Perché c'è l'AMPI, c'è RAM, c'è tutta l'area antifascista che lavora insieme nella zona, che fa un lavoro sulla questione del 4 novembre rivendicando, no? Il 4 novembre, sì. La commemorazione su quel monumento che c'è in quella zona dove è stato ucciso, no, dove è stato assassinato, e quindi rifacendo e ricostruendo i processi, come dicevo prima, del riradicare una memoria che porta poi a una riflessione che è più ampia. Però io credo che dovremmo fare uno sforzo a vedere di collegare anche la condizione di carattere, diciamo che in questo momento siamo in una situazione particolare, che queste robe vanno fatte in rapporto alla condizione del paese in cui siamo, ecco. Sono voglio dire, ma credo che però voglio esprimere questo concetto. Allora, io volevo dire una cosa brevissima rispetto a chi o come ha capito quanto sia importante intitolare le strade a quali personaggi. E una delle azioni che abbiamo fatto come Arbegnoci Urbani è stata intitolare via Calderini e Franzoni a Destà, che è appunto la bambina, perché di bambina si tratta, e tristemente nota per le vicende appunto di Montanelli. La cosa buffa, se possiamo dire buffa, è che quando sono state notate queste targhette d'oro intitolate appunto a Calderini e Franzoni, abbiamo chiesto al negoziante della via, che era proprio di fronte a questa targa, chi fossero questi personaggi. E rispetto al gatekeeping, o comunque al sentirsi al sicuro nella propria convinzione di essere dalla parte del giusto, ingenuamente il giornalaio ci ha risposto: oh, beh, targa d'oro Reggio Emilia, sono partigiani. Non erano partigiani, sono medaglie d'oro nel 37 per azioni coloniali. Quindi è questo, cioè il rimosso, il leggere i muri, dagli stickers agli adesivi alle scritte, è importante per capire dove si è, che cosa ci vuole dire quello che non è scritto sul giornale o appunto sul libro di scuola che ha più di un rimosso. E questo è quanto. A partire da questa situazione che ci aveva raccontato gli Arbegnoci Urbani, una delle altre azioni che rientrano nelle pratiche di guerriglia onomastica è quella che abbiamo chiamato l'operazione Pirite, e cioè iniziare a la Pirite è l'oro degli stolti, quello che quando uno gli dà fuoco puzza di merda. Ecco, quindi nelle nostre varie azioni abbiamo iniziato a mappare tutte le medaglie d'oro al valor militare che in realtà sono medaglie di Pirite, perché sono persone, uomini, che hanno ricevuto queste medaglie con atti vili durante le campagne coloniali, quindi bombardando con l'Iprite ed eccetera. No, mi interessava l'intervento di Marcello il cambio che succede nello spazio pubblico a ogni cambio di governo, insomma. Ma hai detto benissimo, veramente io non saprei dire meglio. Cioè, noi dobbiamo partire da un punto di vista molto chiaro, molto onesto. Il monumento è un atto politico. E lo dico perché spesso invece, hai perfettamente ragione, i monumenti spesso vengono eretti o difesi come se fossero qualcosa di così, un arredo urbano, no? Invece il monumento è un atto politico, e sarò ancora più preciso, un atto politico contro altri monumenti, magari mai realizzati, ma potenziali. Un monumento che non è contro altri sistemi di valore, parlo di monumento pubblico ovviamente, non è un monumento. Cioè un monumento che esprimesse quello che tutti pensano, non c'è bisogno di costruirlo. Il monumento è contro un altro sistema di valori, magari sconfitto, magari marginale, ma che c'è ancora. Quindi il monumento, partiamo da questo. Quindi quando uno vuole segnare il territorio politicamente con il suo sistema di valori, costruisce qualcosa che assomiglia a un monumento. Lo dico perché deve essere un punto di vista onesto, vale anche, dico, per noi, no? Cioè noi non sappiamo di impersonare determinati valori, e quei valori riteniamo che debbano prevalere. Problema che spesso la controparte invece fa un discorso più mascherato. Fa un discorso, ma no, non ha questa intenzione, è qualcosa fatto per tributare omaggio. Non è vero, non c'è bisogno di un monumento per tributare omaggio a una persona. Stai sancendo quello spazio pubblico con i valori che quella persona richiama. Quindi, con questa premessa rapidissima, è evidente che il monumento è sempre potenzialmente momento di conflitto. Il monumento smette di essere momento di conflitto quando smette di essere monumento. Oggi uno che insultasse la colonna Traiana perché condanna l'invasione della Dacia da parte di Traiano sarebbe un pazzo, oppure magari l'Italia in una guerra con la Romania sta riscoprendo quel monumento, quindi torna a essere monumento. Ma se smette di essere monumento diventa reperto archeologico, perché ha perso ogni valore come monumento. Ma il monumento, fin tanto che monumento, divide. Poco o tanto, ma divide. Talmente vero che negli Stati Uniti c'è una accesissima contrapposizione, complessa, non ho la pretesa adesso di affrontarla, sui monumenti degli presunti eroi confederati, bravissimi. Ed è molto complessa la questione, è molto complessa. Gli eroi del sud durante la guerra civile erano, adesso molto di meno, erano molto frequenti in tutto il sud, e suggerisco un aspetto, anche io non lo sapevo queste tecniche, no, di guerriglia da questo punto di vista, ma sono già in atto. In una cittadina del Tennessee, Franklin, c'è uno dei tanti monumenti confederati. Soprannominato localmente Chip, è un soldato confederato in cima a un obelisco, ed è fatto alla fine dell'Ottocento da quelle associazioni di le figlie della Confederazione, erano tutte quelle associazioni nostalgiche, diciamo, del Sud. Bene, la comunità afroamericana, e non solo, ha scelto la strada di non rimuovere Chip, cosa interessante, gli ha costruito di fronte un altro monumento. Un monumento a un soldato di colore delle truppe di colore unioniste. Adesso Franklin ha due monumenti nella piazza principale, Chip e il soldato di colore che si fronteggiano. Ora, io non lo so se questa è una soluzione, è una bella immagine di una memoria in conflitto da questo punto di vista. A me non è... Ultimissima nota, questo l'ho letto in un solo testo, non garantisco, ma era un testo abbastanza serio. Attenzione alla rimozione. La rimozione è anche di un passato non così semplice. Dire, come spesso viene detto, sì, dobbiamo superare un passato italiano che era quasi unanimemente coloniale, filocoloniale, in gran parte è vero, ma ci sono stati anche dei momenti che oggi vengono taciuti. Faccio, a parte che il movimento socialista si oppose in gran parte alla guerra di Libia, e paradossi della storia, il leader che maggiormente guidò la linea intransigente socialista contro la guerra di Libia era Benito Mussolini, che finì anche in galera insieme a Pietro Nenni per le proteste contro la guerra di Libia. Ma una cosa che ho scoperto, ripeto, in una fonte sola, ma mi sembra veramente straordinaria, di una rimozione. Allora, torniamo al, proprio ai monumenti e ai nomi pubblici. Piazza dei 500 a Roma, famosissima perché è vicino alla stazione Termini. Beh, non so quanti sanno chi sono i 500. Sono i 500 di Dogari, no? Quindi i morti di una battaglia, chiamiamola col suo nome, una battaglia. Quando i popoli occidentali perdono le battaglie contro i popoli africani sono massacri, quando le vincono sono battaglie. A Dogari gli italiani hanno perso una battaglia. Tra parentesi era un mio concittadino, il comandante di Dogari, De Cristoforis, ma devo dire non ha lasciato traccia, a parte qualche busto che nessuno ricorda, ma... È interessante che chiesero, oltre all'intitolazione della piazza, chiedero allora quello che era il massimo poeta italiano, Giosuè Carducci, di scrivere una lirica per i caduti di Dogari. Carducci, che non era ancora diventato il cantore ufficiale della monarchia, rispose che non avrebbe mai scritto una poesia per i caduti di Dogari perché gli etiopi avevano fatto quello che noi italiani abbiamo fatto con gli austriaci. Cioè abbiamo cacciato l'invasore dalla nostra patria. Cioè, e oggi questo è completamente... Che ci fosse una opinione pubblica, democratica in questo caso, repubblicana ancora, che in quell'epoca, poi dopo cambiò, guardava ancora con sospetto le imprese oltremare, perché era ancora vicina alla fase in cui aveva lottato per una unificazione nazionale, questo mi sembra un dato interessante. Questo è completo, cioè di Carducci l'ho scoperto, ripeto, in tarda età leggendo un testo, ecco, solo questo. Io mi interessa, perché una cosa che secondo me torna è proprio l'aspetto delle memorie in conflitto. E di quanto queste memorie in conflitto in qualche modo vadano snocciolate, studiate, rivelate, discusse, riportate a galla. Personalmente non mi sembrano chimeriche tutte le proposte di costruzione di una memoria comune, di riappacificazione sociale tra le parti in conflitto. Chimerico perché non ha nessuna fattibilità se non attraverso un processo lunghissimo di presa di coscienza, no? E di conoscenza dei vari aspetti. È inutile cercare di nascondere il conflitto, per quanto mi riguarda il conflitto va portato a galla. Va visto, va guardato, va studiato, va snocciolato. Dopo possiamo iniziare a riflettere su che cosa ne facciamo di questo conflitto. Ma prima lo dobbiamo vedere in tutti i suoi aspetti. E mi sembra che sia un aspetto che anche Marcello condivide. Io non ho capito bene purtroppo la differenza fra sradicamento e rimosso. Che lei segnalava e quindi sono rimasta entrambi hanno la stessa radice per quanto mi riguarda, quando si parla di memoria si parla di oblio e quindi lo sradicamento ha proprio il togliere, il far scomparire le radici che permettono a qualcosa di essere radicato in un determinato luogo o uno spazio. però forse c'è una sottile differenza che non ho colto, ecco. Cioè, non è un po' così, perché lo slavicamento vuol dire una coscienza di classe che ha determinato un rapporto nel conflitto determinando in una certa situazione storica un modo di essere delle classi lavoratrici. Per quanto riguarda una rimozione, no, delle nefandezze fatte da quando un regime ha fatto diventare elemento della sua storia nefandezze dentro a dei percorsi tipo le colonie, quello che è successo da sto punto di vista qui, è il fatto che viene rimossa, quindi cioè, e da questo punto di vista qui viene nascosta, no, quando è successo, e viene quindi rimosso dentro le generazioni, mentre invece per quanto riguarda lo sradicamento è un modo in cui nel processo dello sviluppo di una classe, di una società, il conflitto fra le classi determina un livello di coscienza che fa determinate cose. Poi le cose arretrano, no? E vengono anche modificate man mano. È vero che la memoria è frutto di conflitto, no? Però sarebbe interessante anche cercare di capire che tipo di conflitto si sviluppa. Per esempio, sulla questione della memoria, della rimozione, dello sradicamento. Tre sere fa, qui allo ZAM, abbiamo fatto una serata con un compagno palestinese che arrivava da un campo profughi. Campo profughi vicino a Betlemme. Campo profughi vuol dire che gli abitanti di quel villaggio, non loro, gli antenati di quelli che oggi abitano a Aida in quel campo profughi, abitavano da qualche altra parte. Nel 48 e nel 49 in Palestina sono stati cancellati 480 villaggi. Non sono state distrutte delle targhe o dei monumenti, sono stati cancellati 480 villaggi. Allora, qual è l'elemento politico, qui forse ritorniamo all'inizio, qual è l'elemento politico per cui c'è la necessità, non solo di, cioè c'è una necessità così estrema di cancellare totalmente la storia di un altro, di un popolo? È il colonialismo, è il razzismo, in questo senso, e va molto oltre al fascismo, in questo senso dico, è vero il conflitto, però probabilmente rispetto alle cose di cui parliamo sarebbe importante identificare la qualità di quel conflitto di cui stiamo parlando. Allora, provo a rispondere in qualche modo. Io la memoria fu come processo, è un processo al ritroso che si fa dal presente, giusto? E quindi seleziona, sia a livello soggettivo ma anche a livello comunitario, seleziona ciò che del passato è utile al presente e alla costruzione del futuro. La memoria tecnicamente funziona anche a livello soggettivo, un fatto dell'infanzia viene reinterpretato man mano che uno cresce in modo diverso, non è il ricordo non è mai cristallizzato e unico, muta, e muta in funzione della visione del mondo, dell'esperienza di vita ed eccetera, del soggetto che pensa nel presente e che si progetta verso il futuro. Il livello e la qualità del conflitto che io cerco di riportare a galla è intrinsecamente legata al presente in cui, in cui agisco, per quanto mi riguarda, quindi è al contesto in cui questo si verifica. Io credo che nella situazione politica attuale, dove stiamo abbiamo appena votato e ricevuto dai nostri connazionali un governo che potremmo dire di impianto almeno di anelo fascista, a 100 anni dalla marcia su Roma, credo che riporterà il conflitto, o dovrebbe riportare il conflitto in modo forte, non solo sugli spazi di discussione, ma anche sui luoghi pubblici. E sul conflitto sono d'accordo, era su un sacco di problemi. No, problemi sul conflitto. Cioè, allora bisogna mettere i processi economici, però diventa, era solo che io non voglio dilungarmi, non volevo dire che, che c'è una parte meccanica e una parte politica, sono tutte e due positive, con dentro al fatto di far giustizia della nostra, delle nostre malefatte e di assumercele. No, perché è il fatto dall'altra parte del nostro radicamento invece di riradicare no, le questioni di un mondo. Scusa, prima abbiamo detto. Ma in modo molto concreto, vediamo se riesco a capire. Un po' l'impressione che adesso il conflitto di classe sia scomparso dal dibattito pubblico, che non ci sia più un conflitto di classe, che sia un conflitto ideologico su posizioni, quando in realtà la lotta politica è inevitabilmente un conflitto di classe. Non so se su questo... Conflitto sociale, sì. Blocco sociale, blocco storico... Sandra? Allora, per quanto mi riguarda personalmente, è arrivato prima il conflitto e poi la memoria, perché oggi ci rendiamo conto di chi c'è al governo a 100 anni dalla marcia su Roma, non noi in particolare, però il paese un po' si sta svegliando, ma c'è chi, come penso anche tra di noi, insomma, è da un po' che lotta, perché... In quanto persona razzializzata mi rendo conto che la memoria che viene dimenticata o non raccontata è quello che mi porta ai conflitti nel quotidiano, all'oggi. È quello che all'oggi permette alle persone di darmi del tu nonostante i miei capelli bianchi, o mi permette di vedere persone come me schiavizzate, ok? Quindi persone razzializzate, schiavizzate. E quindi quale conflitto, quale memoria, quali pesi possano avere, secondo me va in base alla presa di coscienza di chi si è nella società, quindi che spazio si ha. Io sono una donna nera, italiana, eterosessuale, mamma, discendente da una famiglia di persone che sono state riconosciute, insomma, dai soldati fascisti. Quindi anche io ho un conflitto nella mia storia. E quindi la memoria, che non è mai semplice e lineare, e non ce n'è mai solo una che riappacifichi tutti, va appunto sviscerata, il conflitto va sviscerato. Grazie. Se non ci sono altri interventi, secondo me ci sono. Vedo degli occhi che vorrebbero ancora dire un sacco di cose. E invece non ci sono, ma ci avviamo verso la conclusione e vorremmo chiudere con la presentazione di un gruppo di musicisti canterini che tra l'altro poi sono il trade d'union di tutta la giornata, perché Alberto parlava di la memoria di Pessina cancellata e della pronipote che ha voluto ricostruire la storia del suo prozio, è lei, la compagna in questione, che ha voluto che la memoria e la tomba a Chiaravalle di questa vittima del primo squadrismo di Francesco Pessina fosse restaurata da Ram, e che poi ci ha presentato Marcello e che poi ha dato il là a tutto, alla giornata di oggi. Quindi si chiude qua il dibattito sul conflitto e i conflitti, chiudiamo con dei canti, ora lei ci presenterà il suo gruppo. Molto brevemente, perché e poi, è una giornata già di molte parole, per cui... dopo che ci presenterà il suo gruppo e quello che andrà a interpretare, sistemeremo la sala, avrete tempo di prendere un bicchiere di vino per tornare ad ascoltare questa scelta di canzoni. Grazie Cecilia e grazie a ZAM per averci accolto. Noi non siamo un coro, siamo un gruppo che si è formato in occasione di questo spettacolo che è dal titolo Disertori. Noi già da parecchio tempo proviamo qui allo ZAM e ringraziamo tutti voi per l'accoglienza e così per averci accolto molto bene. Il progetto è nato prima della pandemia, quando ancora i venti di guerra erano lontani, e adesso è diventato di terribile attualità. Il tempo è maturo per compiere un atto di giustizia storica nei confronti della figura del disertore, restituire dignità ai tanti giovani renitenti obiettori che si rifiutavano di andare al massacro cercando di salvarsi la vita. Il disertore incarna la rivolta individuale contro l'ordine istituito e sperimenta la possibilità concreta di rifiuto dell'obbedienza alla logica del monopolio legittimato dalla violenza delle armi. Durante la Prima Guerra Mondiale la renitenza divenne un fenomeno di massa, specialmente nella seconda parte della Prima Guerra Mondiale. Ci sono stati un sacco di processi per diserzione, per procurata infermità, per disobbedienza aggravata e ammutinamento. I brani che presentiamo oggi sono una selezione dello spettacolo che andrà in onda all'Arcipessina, andrà in scena per la prima volta all'Arcipessina il giorno 15 del mese di ottobre. E lo spettacolo ha la durata di un'ora, per cui questa sera facciamo solo la parte cantata. C'è una fisarmonica, chitarra, e potrete vederlo integralmente, siete tutti invitati il giorno 15 all'Arcipessina. Lo spettacolo lo vogliamo dedicare, anche questi canti, alla nostra Mariella che ci ha lasciato, Mariella Livraghi, che è un'appassionata di canto popolare che ci ha lasciato nella primavera di quest'anno. Siamo sicuri che questa sera sarà qui con noi perché è proprio un'appassionata di canto e abbiamo con noi la sua figlia che canterà con noi. Grazie. Adesso introduciamo i coristi che sono fuori ad accordare la voce. E niente, il repertorio sono tre canti. Ero povero ma disertore, piemontesi e strofette di Cadorna. E con questo vi salutiamo e grazie.